sia lì a Radio 24, tutti i convocati, siete una roba scandalosa. Io lancio un appello a Barigioni, quello di Focus Economia, che mi sembra più serio, che venga a vigilare sugli orari di lavoro che fate tu e Pardo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Stanno insite nella logica degli italiani quando si scontrano anche per il gioco delle biglie oppure il gioco delle bocce, non solo per il calcio, quindi la conflittualità sta nel DNA nostro, bisognerà reprimerle e va combattuta con sanzioni esemplari e soprattutto con la certezza della pena. Perché Cassano è una persona fantastica, è un uomo che io adoro perché è un ragazzo sincero, però a volte è un po' come me, no? Viene dal nulla come me e si fa tutto da solo. Però io ho imparato una cosa, che a volte la miglior parola è quella non detta. Però Balotelli pure sarebbe una bella sfida per Ferrero, no? Sì, ma costa 10 milioni, capito? Se si facesse uno sconto, lui per rilanciarsi, è tipo secondo lei? Lo so aspettare. Lo aspetto a braccia aperte. Non abbiamo fretta, non abbiamo ansia di concludere questa o quella operazione, sapendo che gran parte del lavoro è stato svolto anticipatamente e oggi ci troviamo a dover completare questo organico da mettere a disposizione di Allegri, presentando, diciamo, mettendo sulla torta un paio di ciliegine. Eccoci sulla colonna sonora del nuovo campionato, la tanto chiacchierata colonna sonora del maestro Allievi, che era stata presentata insieme ai calendari. A proposito degli orari di lavoro cui faceva riferimento il maestro Turrini ieri, avete sentito prima della sigla, siamo qui tutti i giorni con uno sconto di mezz'ora fino all'inizio del campionato e non manca tanto, e poi soprattutto si partirà col botto. Comunque abbiamo sentito con Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Giovanni Melchiori in redazione, abbiamo sentito sulla colonna sonora, a proposito vi piace, 800240024, discussione, dibattito aperto. Tavecchio, secondo cui siamo un popolo di hooligans, i comportamenti violenti sono un po' nel DNA degli italiani anche quando giocano a biglie in spiaggia, come sta facendo Pierluigi Pardo. Ciao Pierluigi. No, sono sul divano questo no, momento. Niente biglie, come va? Benissimo, io tenevo sempre Moser quando giocavo a biglie, quelle di plastica. Sì, ma io giocavo poco a biglie. Lo so, c'è di un'altra generazione, c'è una realtà. Secondo me, quanti anni ci sono tra me e te? Tanti, troppi. 78. Mi piacerebbe, tanto piacerebbe. E poi il Ferrero che dice, se Balotelli si fa lo sconto, aspetto a braccia aperte. A braccia aperte? A braccia aperte, lo dice lui. Ferrero... quale ho simpatia, lo dico, insomma, perché non l'avesse capito, però dal punto di vista delle dichiarazioni, dal punto di vista delle notizie, diciamo, cioè, va preso per lo spettacolo, secondo me, Ferrero, sì. Ieri ha fatto un casino stupendo, sì. E dal punto di vista delle notizie, francamente, insomma, dire, se io gli ho sentito dire 20 volte che voleva Cassano, poi dire che non lo voleva, la stessa cosa con Balotelli, insomma, è uno proprio che gioca, sempre, quindi sì. Francamente, il fatto che lui abbia detto che lo accoglie a braccia aperte non può dire, secondo me, che sia realmente così. Ma lui è un grande intrattenitore, anche ieri mi pare che abbia monopolizzato la scena. A me personalmente è molto simpatico, ma il tempo ci dirà se sarà stato anche grande presidente. L'abbiamo sentito prima con Dario Ricci, abbiamo sentito anche Marotta, insomma, parole di circostanza, la Juve cerca di completare la rosa, intanto oggi ha inchiostrato, come ampiamente previsto, Bonucci fino al 2020, poi parleremo anche di questo. Ieri non ci siamo sentiti perché eri impegnato a commentare l'Inter. Sì. Ci abbiamo scherzato un po' sopra, io e Turrini. Facevo meglio, mi sa che facevo meglio. Sì, non benissimo. No, non benissimo. In realtà, guarda, rispetto secondo me alle altre partite, partiamo da quella col Bayern. Nel primo tempo, secondo me, ci sono stati anche dei passi avanti. Cioè, ieri ci sono state delle palle gol, che mi rendo conto può sembrare banale, ma per esempio contro il Bayern non c'erano mai state. Sì. Ieri l'Inter ha avuto buone occasioni nel primo tempo, è partita secondo me anche bene, primo quarto d'ora 20 minuti ha giocato anche meglio del Real Madrid per certi versi, poi però nel secondo tempo si è completamente disunita, ha perso 3-0, ci sono tanti errori individuali, davanti non segna, a parte questo tutto bene, però insomma siamo a luglio, quindi io direi che non ci sono grandi pericoli, sì. Semmai bisogna capire, ieri Murillo ha fatto un errore proprio da dilettante, certo che è rimasto imbalsamato, a me mi era piaciuto molto, era piaciuto contro il Bayern. Sì, anche a me, ieri passo indietro, però mi sembra sia tutto abbastanza fisiologico, no, in questo momento, sì, rimangono tre sconfitte, quella col derby, nel derby secondo me non fa testo perché l'Inter ha giocato praticamente con la squadra B, quella di ieri il Real Madrid è più avanti nella preparazione, è nettamente più forte dell'Inter, quindi può non sorprendere più di tanto. Non c'è nessun particolare problema, secondo me il 3-0, io l'ho detto anche in fase di telecronaca, il 3-0 che tra l'altro nasce da una magia di James Rodriguez appena tornato dalle vacanze, una sola sessione di allenamento con i compagni, fa questa punizione pazzesca, è stata veramente il vero peccato, è stato quello, sì. Perché fosse finita 2-0 non avrebbe fatto così effetto, 3-0 fa inevitabilmente squillare un allarme, no? Anche se giochi contro una grande squadra, però il 3-0 è un risultato in qualche modo pesante e quindi magari può creare qualche impaccio, ma tanto, insomma, le squadre non devono essere in forma adesso, ma no, ma è chiaro anche se si parte adesso, poi ne parliamo anche con voi, 8-0-0-24-0-0-24, si parte subito col botto visto il disegno dei calendari, c'è un derby dietro l'angolo subito dopo la sosta per la nazionale, quindi adesso non ricordo la data, ma poi ve la dico, i primi di settembre. Sì, 12 settembre, sì. Subito dopo 13. La sosta della nazionale. Però per la Champions, io direi che possiamo già ufficializzare i derby domenica sera, 13 settembre, quindi non perdete appuntamenti, perché penso il 12 giocheranno la Roma, Frosinone, la Juve e ovviamente ci auguriamo anche la Lazio, tre squadre italiane in Champions sarebbe estremamente importante. Oggi c'è una giornata importante per la Lazio perché oggi e domani si gioca l'andata del terzo turno preliminare. La Lazio non è terza di serie, ci vuole un miracolo perché possa essere terza di serie. In pratica dovrebbero uscire tutte e tre le squadre che si devono ancora qualificare con un ranking migliore del suo, che sono lo Shakhtar Donetsk, l'Ajax e il CSKA. Se dovessero essere eliminate tutte e tre, in realtà secondo me tutte e tre rischiano, l'idea che tutte e tre vengano fatte fuori è molto difficile. Sì, molto difficile. 3 su 3 che è complicatissimo. Sì, nonostante il periodo. Senti, per la cronaca, Jovetic questa mattina visite mediche, prima parte delle visite mediche, quelle con l'Inter, adesso avrà la seconda parte con il CONI, c'era qualche perplessità, però primi esami superati, lui può cambiare l'Inter, può dare quella qualità che serve. Almeno in parte. Sì, io ti dico, Jovetic è un talento, certamente è un talento. Se torna quello dei 27 gol in due stagioni tra il 2011 e il 2013, può essere un ottimo completamento di questa squadra. Io credo che l'Inter stia crescendo, però credo anche che il punto di partenza è basso, quindi la crescita è evidente, è assoluta. Immaginare un Inter da scudetto o comunque capace di lottare per il primo posto ad oggi mi riesce. Sì, lo può dire Marotta. Ha una quantità di alternative anche tattiche molto, sì, molto importante. Lo può dire Marotta, cosa che ha fatto ieri Inter da scudetto, però secondo me non ci crede nemmeno lui al momento, 8-0-0-24-0-0-24, traffico. Lui sai dov'è Sbardo, io lo conosco, è sullo yacht di Briatore con la Gregoracci che gli porta un cocktail. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, secondo Gigi da Torino, la colonna sonora della Serie A sembra un po' la sigla di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Non ha tutti i torti, eh. Poi questione. Ti piace Pierluigi Pardo? Pronto? Sento? No, che devo dire? Mi piace? No, non mi piace. Sinceramente non la capisco, però voglio dire, apprezzo tutto ciò che viene fatto. L'artista non si discute, lei è chiaramente uno bravo, anzi bravissimo. Dal punto di vista, diciamo, del marketing e della scelta, mi sembra mi sembra francamente ambiziosa, insomma, l'idea che i tifosi, ci auguriamo tranquilli e sereni e distanti, sì, prima di un derby, di una partita di qualsiasi tipo, si mettono a cantare questi, Difficile, ma poi dai, tentativo, mi sembra poi che poi d'altra parte l'ha detto Tavecchio, no? Siamo un popolo di litigiosi, è insito nel nostro DNA, siamo, mi viene in mente le storie tese con l'uligano, siamo tutti un po' uligano. Ecco, adesso tu hai detto Elio, forse avrei fatto una scelta diversa, fatto una scelta un po' più pop, magari un po' più ironica, sì, avrei commissionato l'inno magari, ma che Cozzalone, cioè avrei fatto una cosa diversa. Detto questo, non mi permetto assolutamente di discutere le qualità artistiche di Allegri. Ma no, ma questo ci mancherebbe. La canzone l'ho sentita e dirti che me la metterò come scuderia del telefonino, no, ecco, sarebbe anche no, anche no. Allora, 800240024, tra poco cominciamo già a parlare con gli ascoltatori, ma prima parla Bonucci, che stamattina in conferenza stampa è stato ripresentato, ma è stato presentato prolungamento il suo contratto fino al 2020, sorrisi, baci, abbracci a fianco di Andrea Agnelli, ha risposto a Nainggolan senza particolare verve polemica, ricordiamo le parole del romanista nei giorni scorsi, vincerne uno qui come vincerne 10 a Torino con la Juve, va bene, Bonucci. Per quanto riguarda le parole di Nainggolan, massimo rispetto per quello che ha detto. Noi siamo stati abituati a parlare con il campo e gli ultimi anni abbiamo risposto con 4 vittorie dello scudetto, e sicuramente in quei 4 festeggiamenti io ho goduto tanto. Così Bonucci, dall'altra parte non bisogna aspettare molto tempo per il faccia a faccia, il calendario a proposito, non il famoso Pirelli di cui parla la collezione completa, ma pur sempre con un certo fascino estivo. Vero che bisogna giocare con tutti, ma il momento conta e il 30 di agosto per un Roma-Juventus è davvero presto. Sì, il momento conta, però fammi dire che non è prevedibile. Cioè, io sono d'accordo con quello che ha scritto ieri sulla Sampdoria, nel senso che poi alla fine uno guarda il calendario, può fare delle valutazioni così molto teoriche, molto astratte. Ad esempio, sicuramente è importante che nelle prime 5 partite il Napoli abbia un calendario abbastanza morbido, al di là di Napoli-Lazio, ovviamente non semplice, se non sbaglio alla 4ª giornata, però è pure vero che di contro potrebbe essere meglio affrontare le grandi subito, che magari non sono in condizione, cioè, una grande squadra magari a settembre questo può fare qualcosa, ma lì vedi il 30 è difficile capire come staranno, a parte che il mercato sarà ancora aperto, quindi anche questo è curioso, difficile però capire come due grandi come Roma e Juventus staranno il 30 agosto. Forse questo confronto così anticipato toglie qualcosa a una sfida? Secondo me sì, cioè Roma-Milan alla penultima, se non sbaglio, adesso ti controllo. Napoli-Lazio, a un certo punto la Lazio aveva quel calendario molto complicato nelle ultime giornate, però Napoli-Lazio... Roma-Milan all'ultima, 19esima, okay. Il 10 di gennaio, primo atto, sì. Quindi capito, cioè, è molto difficile, molto complicato. Sicuramente alcune cose si possono dire, ad esempio si può dire che Roma-Juve e Inter-Milan saranno due partite che potranno dare un indirizzo anche psicologico di un certo tipo. Guarda, io già ti dico Inter-Milan pareggione, te lo dico oggi che è il 28 di luglio, dai pareggione, ma perché nessuna delle due potrà nemmeno immaginare di perdere quella partita. Prevedo la partita della grande paura, del grande timore. Italo Galbiati, da Trento. Italo Galbiati. Buongiorno, no, Italo da Trento. Buongiorno. Ciao, salve ragazzi, buongiorno. Sentite, io ieri non ho potuto sentire la trasmissione, ma volevo sapere se avete parlato di Ferrari, del risultato in Ungheria. Sì. Beh sì, ne abbiamo parlato una bella mezz'oretta con Leo Turrini, quindi cioè, ci mancherebbe altro, è stata la notizia della domenica, quindi la notizia del momento, ne abbiamo parlato altro che. E se volete torniamo a farlo, tanto questo programma è casa vostra, decidete voi, siete sempre convocati. 800 24 00 24. Un'altra voce di ieri, Zanzi, CEO della Roma. Penso che la Lega è aperta, non è non è un tema di noi, un'altra squadra, ci sono tutti e quindi noi lavoriamo per poter vincere contro ogni rivale, non è che spuntiamo verso uno o l'altro, questo è anche sbagliato e pericoloso. Si lavora in gruppo con ogni giocatore e l'allenatore e alla fine arriveremo bene. C'è chi per Accosta invece l'inno del campionato, l'inno della Lega, a Guerre Stellari o a Excalibur. C'è chi mi rimprovera Renato da Venezia, risultato del derby insignificante, se avesse vinto l'Inter avresti fatto la stessa considerazione. Certo che sì, ma non dico insignificante per il risultato. Adesso dico che in quella partita l'Inter ha giocato con parecchie riserve, l'ha affrontata con parecchie riserve, quindi è meno indicativa rispetto alle due partite contro il Bayern di Real Madrid. Però, sto dicendo appunto, solo meno, questo meno indicativo, sono d'accordo con te, però poi alla fine giochi appunto con riserve, se non è anche ci può stare, sì. Perché poi due giorni dopo, 48 ore dopo c'era la sfida contro il Real e poi però con il Real giochi con gli orari e perdi 3-0, quindi cioè, alla fine secondo me il bilancio deve essere complessivo e non è un bilancio particolarmente positivo. Mercato aperto, io ho grande fiducia in Miranda, per esempio. Miranda è un giocatore che può dare tanta assolutamente velocità e qualità e anche assolutamente esperienza di partito, quindi, assolutamente. Senti una cosa, ma se Putin ha incontrato Blatter, sì, l'ha proposto per il Nobel per la pace, pensa un po', a Mondonico cosa diamo? L'organizzazione delle Olimpiadi? A Mondonico gli diamo tutto il nostro cuore, il nostro affetto, che non vale come il Nobel, ma forse vale di più, diciamo, c'è la verità. Ciao Emiliano. Ciao mister. Ciao mister. Buon pomeriggio a tutti quanti. Sono un po' in difficoltà e vi spiego perché. Sono in difficoltà perché sto facendo dondolare la mia nipotina sull'altalena. Hai bisogno di tutte e due le mani? No, è che bisogna sapere le canzoni per i bambini. E io i tre porcellini li ho cantati, carissimo Pinocchio, la mia vecchia fattoria, e lei continua a dire ancora, sì, ho intonato sorrido. Heidi, propone Pardo, e adesso ho esaurito tutta la mia conoscenza. Ti mando Pardo, mister, ti mando Pardo che le sa tutte. Ecco, okay, di modo che mi dia una che io gliela canto e lei è contenta. Perfetto. Perché lei continua a dirmi, non ancora. Quando gli canti una canzone ti dice, questa l'abbiamo già cantata. Benissimo, ma la passi un attimo, mister, ti faccio una canzoncina, da zio. Gaia, vuoi sentire una canzone? Oddio, che canzone gli cantiamo adesso? Adesso ve la canto. Ecco, cantate che la faccio sentire. Vai per lui. Heidi, ti sorrido i monti. Heidi, Heidi, le caprette ti fanno ciao. Stai dicendo? Ciao Gaia, come stai? È meglio il nonno come cantate, ma questo è sicuro. Questo Pronto. È sicuro. Questo niente è sicuro. Però, mamma ha detto: ma cosa ha detto? E ha detto: no, parla inglese. Perché al mare andava, lei va a parlare con tutti, andava dagli stranieri, e rispondevano e dice: ma cosa hai detto? Vabbè, ditemi. Senti, mister, ma i calendari, quando uscivano i calendari, quando escono i calendari, tu che fai? Ti preoccupi, non te ne frega niente, tanto bisogna giocare con tutti. Dipende dal momento dove sono, con chi sono. È chiaro che se voglio dare alla squadra sicurezza, dico dobbiamo affrontarle tutte, non ci sono problemi, noi non facciamo differenze. Se devo allenare una squadra che così sta per essere messa a posto, ma all'inizio è un po' difficile, però verso metà novembre, metà dicembre abbiamo un calendario che ci è favorevole, perciò vuol dire che se da metà novembre a metà dicembre sei ultimo o penultimo, sei giustificato. Diciamo che tutti sono delle giustificazioni, sì, come sì. Un'altra situazione che dobbiamo tenere in grande considerazione è che le grandi squadre in un anno perdono 5-6 partite al massimo. C'è chi in questo momento le sta perdendo subito, così dopo le vince tutte. Vabbè, chiaro. E mi dispiace che molti si preoccupino, perché magari le nostre squadre qualcuna ne perde due, ne ha perse tre di fila. Tranquilli, questi ne hanno ancora due, le perdono le prossime e poi per tutto l'anno non perdono più. Certo. E diciamo che può essere una mossa anche quella anche più astuta, psicologica che tattica. Io le perdo tutte subito, così dopo tanto i punti in precampionato non li danno, quindi appunto, allora prendiamola così. Perché altrimenti diventiamo matti. Senti, ma sono davvero più corte le distanze tra la Juventus e le altre nell'anno dipende, della grande rivoluzione? Dipende dagli ultimi acquisti della Juve. Nei 13, 14, 15 giocatori sicuramente sì. Cioè la Juve secondo me è andata più avanti. Però gli altri hanno 20 titolari, cioè l'Inter titolare si permette di tenere in panchina quando li avrà tutti, Hernanes, Kovacic, Guarin e compagnia bella, e perciò gli altri non possono avere dei giovani in panchina. Sì, chiaro. Diciamo che la Juve secondo me ha bisogno di questo numero 10, perché la rivoluzione di Allegri penso che sarà soprattutto con questo numero 10. Vediamo un po' chi sarà, se sarà uno, se saranno in due, e se saranno in due che cosa succederà. Però è chiaro che la Juve ha bisogno di quel giocatore. Aveva un enorme vantaggio. Sì, non so se Pierluigi vuole chiederti qualcosa, poi ti lasciamo a Gaia. Sì. No, io sono d'accordo. Ascolto il mister proprio con grande partecipazione e interesse. Qual è l'outsider? Ce n'è una se la Juve dovesse bucare, cosa che secondo me è abbastanza improbabile. Posso buttarla lì? Il Torino. Ah, il Torino. Ma perché sei tifoso, mister? Ma il Torino perché il Torino, cioè, sai, l'anno scorso ha fatto degli episodi, ha vinto in Europa League a Bilbao, ha battuto la Juve. E poi è chiaro che non ha fatto altri risultati, però potenzialmente secondo me è una squadra che bisogna tenere da conto. Adesso non so chi prenderanno come attaccanti, dovessero prendere Belotti, è chiaro che diventa proprio, perché Belotti è un giocatore da Torino, giocatore giusto, sì. Io l'ho conosciuto all'Albino Aleppe quando ancora giocava nella primavera. E questo è uno che non molla mai, uno di quelli che più gli dai e più lui dà. Sì, perciò è proprio il giocatore giusto per il Toro. Sì, impersonificato nella figura proprio del giocatore del Toro. Perciò io dico che il Torino sicuramente avrà grandi possibilità, perché le altre squadre hanno problemi adesso, è inutile, cioè non si può dire. Allora il Milan aspetta Ibra, l'Inter ha cambiato 8, 9, 10 giocatori e bisogna metterli assieme, non si sa quanto tempo ci vuole. La Roma aspetta Dzeko. Cioè, la Lazio le perde tutte anche lei. Sì. Non lo so se lo fa per dopo non perdere più. Quindi occhio al Toro, ma tra l'altro Belotti è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con Abel Hernandez, insomma è uno dei nomi probabili, quindi consigliato da Emiliano Mondonico, tanto so che il presidente Cairo ci sta ascoltando. Grazie mister! Grazie. Ciao. A voi, saluti Gaia. La canzone, mia nipotina è sceso dall'altalena ed è andata in casa perché molto probabilmente non ha capito. È rimasta okay, scioccata. Grazie a voi. Ciao mister. Che abbiamo fatto? Ci andiamo per la borsa e proviamo a ripigliarci. 800 24 00 24, numero verde. Mi usi la cortesia di farmi partecipare a questo capolavoro di trasmissione che è Tutti Convocati, che è un po' quello che era Studio 1 con Lelio Luttazzi e Mina in televisione, no? Quando ero bambino io, un cult, no? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti Convocati. Prima di tutto ringraziare per stare qua, stiamo allenando con molta voglia di fare una grande stagione, credo che questa squadra lo può fare, e bueno, ringraziare di nuovo a tutti per venire. Il sogno di tutti noi è vincere qualcosa e lavoriamo per questo. Ma sono tanti giorni sinceramente, non solo da stasera. Pensavo d'essere nato a Napoli casualmente e probabilmente invece non è stato così. Mi sono emozionato già da avversario, quindi penso che da padrone di casa, fra virgolette, sarà una giornata sicuramente particolarissima. Questi erano Higuain, cui è tornato sorriso, e Sarri, allenatore del Napoli, ieri presentazione a Di Maro. De Laurentiis in platea non è salito sul palco, nessuno, unica squadra di Serie A, nessuno si è presentato alla compilazione dei calendari, quindi motorini tutto a posto. Senti, sì. Higuain è tornato sorriso, ha firmato con lungamente. C'era Bellinazzo, c'era il nostro amico Bellinazzo che sì. È in quota Napoli. Ah, in quota Napoli. Non risulta però che sia saltato sulla sella di qualcun altro. Perché il calendario del Napoli è abbastanza semplice nelle prime 5 partite, ripeto, al netto di questo Napoli-Lazio. Napoli-Lazio alla quarta. Non è facile, però insomma le prime 3 sono sulla carta abbastanza comode, poi comincia un trittico complicatissimo, però l'abbiamo detto, forse c'è un caso, sempre così ragionando in astratto, dove veramente il calendario poteva avere un peso, era quello del Napoli, perché Sarri ovviamente ha la prima esperienza importante, chiaro, di questo tipo della sua carriera, quindi potrebbe avere subito detto un po' tante la prestazione. Non è storicamente uno che parte veloce, e quindi magari un tipo di calendario un po' più semplice all'inizio potrebbe dargli una mano. Di contro poi come sempre Però tu sai che io ne ho un altro qui in quota Napoli, no? Sai a che mi riferisco? Che mi ha sussurrato in cuffia, ma le piccole sono il problema del Napoli. Ho capito, Luca, se le piccole sono il problema del Napoli, che dobbiamo fare? Non si iscrive al campionato, no? Però voglio dirti, ma sono d'accordo con te, nel senso che poi alla fine valere anche l'esatto contrario, cioè può valere anche il fatto che tu hai una partenza sulla carta comoda nelle prime 3 giornate, però se sbagli, no, è un problema maggiore col Carpi o perdere a Sassuolo, adesso De Luca grattati e fai il tuo capello, grattati brutto, è chiaro che pesa anche di più, quindi, però insomma secondo me in generale Napoli ha un buon esordio e potrebbe ricavare un effetto entusiasmo prezioso per il futuro della stagione, il prosieguo. C'è anche da dire che a tutti i confronti diretti in trasferta al ritorno, salvo il Milan, mi segnalano sempre. Claudio Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Grazie della convocazione. Grazie a lei. Due opinioni e una domanda. La prima è che secondo me il calendario, tutto sommato, le squadre vanno incontrate tutte, quindi per mia opinione, insomma, prima o dopo non fa differenza. Esatto. Seconda cosa, secondo me il Napoli quest'anno è una di quelle squadre che darà fastidio a tanti, io compresi la Juve. Ma la domanda che vi voglio fare è sul mercato dell'Inter. Io sono un interista di fede, non mi strappo i capelli, non è che vado allo stadio, però insomma la seguo da sempre. Negli ultimi 2 anni, 3 anni, dopo il triplete, mercato inesistente. Compra Toir, non si fa più mercato, per prendere Medel, spendere 3 milioni, ci sono voluti 6 mesi, adesso improvvisamente mercato faraonico con Dombia 35 milioni, andiamo a prendere Perisic, andiamo a prendere... La domanda che vi voglio fare a Pardo, voi operatori del settore, del mercato, ma non è che il buon Moratti ha fatto un paio d'anni, 3 anni in purgatorio, adesso si è stufato e ha rimesso mano al portafoglio? Non credo, non risulta, mi sembra sia solo una suggestione, semplicemente è cambiata la prospettiva, cioè all'Inter si sono resi conto che per ricostruire la squadra, per andare in Europa, per rimettere le basi di qualcosa che non c'è più, servivano come al solito i denari. Non credo che siano dimorati. Può essere solo una suggestione, no, Piero? Sì, direi di sì. Direi che è solo una suggestione, insomma. L'Inter doveva fare delle cose, deve farne ancora per tornare a certi livelli. Non è facile, perché il vantaggio che ha preso la Juve in questi anni è un vantaggio non solo nei confronti dell'Inter, ma nei confronti di tutte le altre. Secondo me è un vantaggio enorme. Però insomma, mi pare che quest'anno... Però da qualche parte per ridurlo bisogna pure cominciare. Ma infatti io ho sensazioni positive sull'Inter, insomma, perché comunque la forza della squadra, la forza fisica della squadra. Vediamo anche come chiude il mercato. Intanto sto vedendo le immagini di Muntari, che ha firmato per l'Al-Ittihad per 2 soldi, 7 milioni l'anno per 2 anni, 7 più 7 fa 14. E sta cercando di convincere anche Boateng a raggiungerlo e a farsi ricoprire di dollaroni. Pasquale, vivo Valencia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, volevo parlare dell'Inter e volevo riallacciare il discorso del grande Mondonico, grande persona. Niente, siccome gli anni scorsi dicevate sempre che vincevamo solo ad agosto, adesso finalmente partiamo ad agosto e speriamo di vincere durante la stagione. Mercato soddisfacente o no, secondo lei? Soddisfacente e molto fiducioso di mister Mancini. Jovetic? Jovetic? Jovetic, un grande, spero che arrivi pure Felipe Melo, così riesce a far crescere pure un po' Kovacic in, in quella parte del campo. Sì, no, su Felipe Melo credo che gli interisti siano abbastanza divisi. Sì, anche abbastanza tiepidi. È no, molto, su, molto. Su Kovacic c'è da dire assolutamente che ieri è stata forse la nota più positiva, al di là di un'incertità che in qualche modo origina il gol del 2-0 con un colpo di tacco al limite dell'area che non si fa. Ma ha risolto mille situazioni, ha verticalizzato, ha fatto molto bene. Ieri mi è piaciuto molto Kovacic e secondo me davanti alla difesa, insomma, è un tipo di soluzione, di suggestione molto, sì, molto interessante. Sì, poi hai letto del Neri che ha detto invece Milan dietro a Juventus con Bertolacci, baby Pirlo addirittura. Questa mi sembra tantissimissima roba. Ha detto anche un'altra cosa del Neri. Sì, ha detto anche un'altra cosa: chi prende Cassano fa un affare. Sì. Questa intendo. Scusa, era un attimo l'ufficio stampa che si è reso no, comunque Bertolacci, Milan è... Poi guarda, ti dico, Milan e Inter sono tutte e due interessanti, però secondo me partono molto da dietro. Cioè, noi siamo abituati a pensare giustamente a Milan e Inter come delle grandissime squadre, e lo sono della storia del calcio italiano, nessuno lo discute. Però tu devi considerare la campagna acquisti in relazione a quello che è successo l'anno prima. Certo. Allora, la distanza che hanno Roma, Lazio e Napoli e Fiorentina dalla Juve è nettamente inferiore come punto di partenza a quella che avevano Inter e Milan, ma proprio nettamente. Quindi mi pare che tutte e due stiano facendo cose interessanti. Io sono convinto che Milan, se prende Ibra, che secondo me lo prenderà, farà il solito grande affare, e quindi quello potrà contribuire molto a ridurre le distanze. E l'Inter sta facendo un progetto un po' più strutturato, un po' più razionale, però secondo me la distanza da colmare è tanta, ecco, tutto qui. Tanto Ibra si è preso un bel figlio di da Rabiot, dal giovane Rabiot, scapigliato, e mi sorprendo come Rabiot sia ancora tra di noi, cioè sì, ancora vivo, non ci sono notizie di attentati o aggressioni a Rabiot. C'è, cioè, invece questo insulto lanciato a Ibrahimovic, che si stia rammollendo. Cazzo, guardi. Patrizio, provincia di Latina, buongiorno Patrizio. Patrizio? Non c'è. Pronto, Patrizio? Non c'è Patrizio. Marco dalla provincia di Modena. Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pardo, buongiorno Genta. Buongiorno. Onoratissimo della convocazione. Onore nostro. Dica. Posso muovervi un appunto? Sì. Io vi ascolto sempre, ritengo un'eccezionale trasmissione condotta con ironia e professionalità. No, però scusa, eccezionale. L'unico appunto, non ho sentito parlare del mercato delle piccole. Io tipo Palermo, sono originario di Palermo, e mi piacerebbe sentire il vostro parere su acquisti delle piccole, i Cassini del Palermo, tra i Coschi, acquisti del Frosinone, del Carpi, di come si stanno muovendo anche le piccole. Parlate solo delle grosse. Sì, Palermo che prende vicino a Joel Campbell, tra l'altro, quindi questo potrebbe liberare in qualche modo Belotti. Ultima cosa che ti chiedo, allora facciamo così, Pierluigi: nella famosa parte destra della classifica, chi vedi come possibile sorpresa? È ancora molto presto. Troppo presto? Ma sì, è ancora molto presto perché comunque manca tanto, cioè alla fine del mercato, anche se quest'anno col fatto delle rose da 25 io credo che ci sarà bisogno di un po' di programmazione in più, come diceva qualche giorno fa proprio Parisi, cioè comunque inevitabilmente ti devi fare degli incastri, se vuoi fare dei colpi verso la fine ti devi lasciare il posto. Quindi da questo punto di vista probabilmente si può fare qualche valutazione un po' di più, un po' più semplice. Per parte destra, che intendi? A Palermo lo vedo bene, lo vedo fuori da qualsiasi pericolo, il Verona ha questa suggestione di questo attacco, diciamo, non più giovanissimo, però sono convinto che Pazzini possa ancora dare molto. Il Chievo fa cose razionali, il Sassuolo fa cose razionali, il Frosinone ha bisogno di questo attaccante veramente come il pane, si sta muovendo molto, ha cominciato il ritiro tra l'altro in ritardo, addirittura il 18 luglio, quindi un po' in maniera un po' sorprendente. Sì, cantieri aperti, dai. Cantieri però, troppo. Siamo le fondamenta. È ancora un po' presto per dirti la sorpresa. Tra 15 giorni già la situazione sarà un po' più chiara. Io penso che il Torino si confermerà, penso che il Genoa, nonostante le tante cessioni, abbia ancora delle qualità e garanzie Gasperini molto precise, esatto. E questo è, insomma, e la Samp, certo, vediamo se arriva Cassano, Balotelli o la Samp Clayton. Ad oggi mi sembra un pochino indebolita, anche semplicemente dalla partenza di Romagnoli, però mi sembra che abbia le risorse per far bene, quindi credo che qualcosa, un colpo ci sarà da qui fino alla fine, credo anch'io. Pier, sentiamo domani. Va bene, quando vuoi, io sono qua. Benissimo, ciao per Luigi Pardo, ciao. Ci fermiamo per traffico, vi ricordo, dopo il traffico abbiamo ancora un po' di chiacchiere da fare con voi, 800 24 00 24, e con Ivan Basso per chiudere il capitolo tour. Siamo insieme un'ora, questo fino all'inizio del campionato, ci fanno lo sconto estivo. Traffico. Confessate che siete al mare, che siete lì con la Federica Margi, con tutte queste veline qui. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24 per parlare con noi, per rispondere alla convocazione come ogni giorno e come ha fatto Patrizio da Latina. Buongiorno Patrizio. Buongiorno. Buongiorno, dica. Senta, io vorrei parlare della Roma. Sì. Perché sono un po' preoccupato, diciamo, mancano 20 giorni ormai all'inizio del campionato, comunque dei giocatori non sono stati presi, anche per l'amalgamento dei giocatori per incominciare il campionato è già un problema. Poi abbiamo dei giocatori come Castan e Strootman, il quale Castan non si sa se ti prende o no. Strootman, sì, sono 2 anni che sta con noi, entra in campo, si rompe e torna dopo un anno. Entra, gioca un mese e si rompe dopo un anno. Come finalizzatori non vedo nessuno. Diciamo, vedo una squadra come l'anno scorso. Ma adesso arrivano. Adesso arrivano. Ma quando? Sai, il mercato chiude i primi di settembre, quindi addirittura dicevo prima del paradosso di. Tanto vi dico subito che Tania Cagnotto ha vinto l'oro nel trampolino da un metro ai mondiali di Kazan. Quindi Tania Cagnotto, ed è ufficiale, gara chiusa in questo momento, oro nel trampolino da un metro, campionessa del mondo. Ulteriore titolo che arriva all'Italia dei tuffi. Dicevo Patrizio, un attimo, io credo che Dzeko arriverà. Credo che la squadra comunque non sarà al via del campionato quella che si sta vedendo adesso. Non dimentichiamo che la Roma, ha ragione Pardo in questo, parte con un certo vantaggio. A Roma, la Lazio, il Napoli partono con un certo vantaggio strutturale nei confronti, ad esempio, di Milan e Inter che inseguono, e questo è il portato dell'anno scorso. Eccolo qui, saluto e ringrazio Ivan Basso. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Ciao. Senti, alla fine a Parigi sei andato, anche se non in bicicletta. Alla Parigi sono andato e questo vuol dire anche che sto bene. Sì. Quindi sono molto molto felice, ho incontrato i miei compagni e niente, è stata una bellissima giornata per me e molto felice da tutti i punti di vista. Senti, io voglio leggerti una cosa che mi ha molto colpito di quanto ha scritto oggi Gianni Mura nella sua pagina conclusiva al tour, ed è questa. Scrive Mura: l'Alpe d'Huez è il concentrato del peggior pubblico che il ciclismo abbia avuto da mezzo secolo in qua, ed è sintomatico che per esaltare questo bordello si parli di tifo da stadio. Non è un complimento. Poi prosegue: come è un classico da stadio, il lancio di Piscio dall'anello sopra a quello sotto, salendo verso l'Alpe a From è andata molto meglio, gli hanno lanciato addosso solo birra. Quindi durissime accuse di Mura nei confronti del pubblico del Tour quest'anno. Ma io non mi permetto di dire questo. Io non, ovviamente non è piacevole ed è sicuramente un gesto imperdonabile quello che sì. quello di ovviamente fare cose che lanciare certo, sì, urina sì. contro i corridori piuttosto che spintonarli, toccarli o sbilanciarli come abbiamo visto tante volte. Però a mio parere parlare di pubblico in generale non è corretto, perché il pubblico del ciclismo è un pubblico fantastico, è un pubblico che non merita di essere definito così per colpa di qualche idiota. Sì. Quindi queste persone spero che vengano riconosciute dalla polizia e che possano poi essere anche perseguite per quello che hanno fatto, no? Perché è un gesto che però non deve così far passare il pubblico del ciclismo. Certo, le generalizzazioni sono sempre sbagliate. Sì. Sono professionista da molti anni e devo dire che la correttezza del nostro pubblico è intoccabile, quindi mi trovo d'accordo che è sicuramente stato brutto vedere questa cosa, bruttissimo, ma non sul fatto che il pubblico del ciclismo sia... Erano semplicemente dei deficienti, non erano catalogabili come pubblico del ciclismo, insomma. Ma chiaramente, ma questi probabilmente sono degli imbecilli che si comportano così anche in altre occasioni, non solo quando vanno a vedere le gare di bicicletta. Bravo Ivan. Senti, ti piace From? Quanto ti piace Chris From? Mi piace, ha vinto due tour. Ma come corridore, come tipo di corridore? Ma io credo che From è un corridore che... non solo per quello che ha vinto, ma anche per la serietà in cui prepara i grandi appuntamenti, lo porta ad essere un atleta perfetto. Io credo che ha costruito la vittoria del suo secondo tour nella prima settimana, nel primo arrivo in salita, e dopo è stato molto bravo a gestire il vantaggio che aveva nella prima parte. Soffrendo molto, ma questo lo rende, a mio parere, ha reso questo tour ancora più bello, incerto fino alla fine, perché Quintana è cresciuto molto, Vincenzo è cresciuto molto, Contador ha lottato per mantenere la posizione che aveva, e quindi bisogna... A me è piaciuto molto questo tour, sì, anche a me. Dal divano, ma a me è piaciuto molto perché tutti i top rider sono stati in lotta fino alla fine e hanno cercato di comunque contrastare la maglia gialla fino all'ultimo. Sì, per chiudere, l'ultima volta che ci siamo sentiti era tour in corso, avevamo parlato di un Nibali che poteva essere ancora a caccia del podio, gli è scappato sull'ultima salita, magari ce la poteva anche fare, però alla fine a me è piaciuto molto il tour di Nibali. Oggi leggevo una sua intervista, mi ha insegnato tanto questo Tour de France. Sì, io, se vi ricordate, nelle telefonate dopo il periodo difficile di Vincenzo al Tour avevo detto la mia opinione, che le critiche a Vincenzo erano state esagerate e ingiuste. Vincenzo ha dimostrato di essere un grande campione, ha dimostrato di lottare con i migliori corridori del mondo, ha sfiorato il podio e sono felice che ho avuto ragione e non ha tradito non solo le aspettative che aveva con se stesso, con la sua squadra, ma anche con tutti i tifosi italiani. Certo, sono d'accordissimo. Ivan, ci sentiamo presto. Grazie, arrivederci. A molto presto, Ivan Basso. A molto presto, arrivederci. Ciao. Chiudo con Guido da Torino. Buongiorno Guido. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Innanzitutto auguri a Ivan Basso e tutta la mia ammirazione. Anche la mia, anche la nostra di tutti quanti. Ecco, ho chiamato semplicemente per questo, perché secondo me bisognerebbe fare finalmente il punto della situazione sugli acquisti delle grandi squadre che comprano giocatori pagandoli fra 2 o 3 anni, a quanto pare, da quello che si legge sui mercati, e prendendoli in prestito per un anno col diritto di riscatto fra 2 o 3, quindi praticamente acquistandoli senza soldi. Le stesse squadre che poi chiudono i bilanci con centinaia di milioni di perdite ogni anno. Io sono un piccolo imprenditore e se io avessi i bilanci delle grandi squadre di Serie A, forse escluso Juventus e Lazio, tutte le altre mi risulta che potrebbero portare i libri in tribunale. Ma non solo in Italia, Guido. Ecco, non solo in Italia. Non solo in Italia, perché in Italia, insomma, i meccanismi sono diversi. Sì, però i meccanismi diversi. Ma Real e Barcellona, ad esempio, hanno montagne di debiti, producono grandi fatturati, sono in grado di pagare gli interessi alle banche, però al di là degli inglesi che sono stati ricoperti d'oro dalla vendita dei diritti televisivi e che possono permettersi anche di sperperare un sacco di soldi, perché questa è la verità, cioè loro arrivano con una valigia piena di soldi anche in Italia, fanno shopping, prendono i giocatori e poi ce li restituiscono a metà prezzo, perché questo è il discorso. Poi quanto lei dice è inconfutabile, ma noi ne parliamo spesso con Marco Belinazzo. Il calcio è un movimento di enorme importanza anche per l'economia nazionale, ma è un movimento in situazioni di enorme difficoltà. Quanto alla pratica a cui lei fa riferimento, che è reale e non accade solo in Italia, ormai è una pratica invalsa, cioè quella di dire prendo giocatore in prestito, te lo pago ad esempio Jovetic, cos'è, 3 milioni per 2 anni di prestito e poi ho l'obbligo di riscatto a 15. È una pratica ormai comune, ad esempio l'Inter aveva preso in questo modo Shaqiri che adesso verrà ceduto con la stessa formula, quindi sono dei giri internazionali di denaro più o meno virtuale che sono ormai invalsi. Questo per giustificare proprio nessuno, perché comunque se c'è un fattore positivo è che mai come negli ultimi anni si è data pubblicità a ciò che succede nei bilanci delle grandi squadre, mai come negli ultimi anni, come nell'ultimo periodo si parla in continuazione di problemi di questo tipo, mai come negli ultimi anni siamo a conoscenza di come si muovono questi capitali, ciò che fa Tuchel con l'Inter, di ciò che sta per fare Mr. Bean, arrivo in Italia con il Milan, di qual è il prospetto economico della Juventus. Sono tutte cose che accadono sotto la luce del sole. Questo secondo me è un punto di garanzia. Salutiamo? Va bene, tanto ci ritroviamo domani dalle 2 alle 3 orario estivo fino all'inizio del campionato, non dimenticatevelo. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiorre in redazione. Ciao a tutti. Ciao, buone vacanze, nuota anche per me, fa la paperella.